24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Angela Merkel ribadisce con forza e senza margini il suo no agli eurobond. Finché sarò in vita non ci sarà alcuna condivisione del debito, avrebbe detto, secondo indiscrezioni, la cancelliera tedesca ieri a Berlino durante un incontro con i parlamentari del partito liberale FDP. E ieri sera a cena di lavoro a Parigi tra i ministri delle finanze di Francia, Germania, Italia e Spagna. I quattro ministri sono stati incaricati dai loro capi di Stato e di Governo, riunitisi venerdì scorso a Roma, su invito di Mario Monti, ad approfondire nel prevertice i lavori di preparazione in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì a Bruxelles. È un documento denso di idee, in alcuni casi anche controverse, ma che ha il desiderio di trovare punti di incontro tra le diverse sensibilità nazionali, quello che il presidente del Consiglio Herman Van Rompuy ha preparato in vista del vertice di domani e dopodomani a Bruxelles. Il rapporto mette nero su bianco le varie piste possibili per rafforzare l'integrazione europea, dall'unione bancaria all'unione di bilancio. Il documento è stato accolto cautamente dai Paesi membri. Alla Germania, per esempio, non è piaciuto il riferimento a una mutualizzazione dei debiti. Altri hanno messo l'accento sull'assenza di misure di breve termine. In realtà il testo è solo una piattaforma programmatica che andrà nelle prossime settimane precisata nei contenuti e nella tempistica. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E il premier Mario Monti, prima della partenza per Parigi, ha avuto una giornata fitta di impegni, ha incontrato i vertici di PD e PDL ed è intervenuto alla Camera per riferire sulla crisi dell'euro. Una sensazione di indeterminatezza assoluta, un vertice difficilissimo, un summit dell'esito non scontato. Il premier Mario Monti chiede il sostegno del Parlamento per l'incontro europeo del 28 giugno dopo il difficile pranzo con Silvio Berlusconi e il PDL. Monti usa proprio le parole del Cavaliere. Il presidente Berlusconi, dopo l'incontro che ho avuto il piacere di avere con lui e con l'onorevole Alfano pochi momenti fa, ha parlato giustamente di assoluta indeterminatezza. Questa non sarà una riunione nella quale si andrà ad apporre un visto formale a documenti preparati. Il Presidente del Consiglio ribadisce in aula a Montecitorio che l'Italia non deve avere nessun complesso perché rispetta le regole e ha già in mente una proposta per sviluppare meccanismi anti-spread e riequilibrare le pressioni dei mercati. Quella proposta dall'Italia di usare i firewalls per evitare divaricazioni eccessive degli spreads fra i titoli del debito sovrano degli stati che sono in regola. Dal canto suo il Cavaliere avvisa il governo portare a casa risultati altrimenti non terrà bada ai suoi elettori contrari per il 75% al governo Monti. E Berlusconi già si propone ministro dell'economia in un futuro esecutivo guidato da Angelina Alfano. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sono terrorizzato da una caduta dell'euro. Così il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, secondo il quale a Bruxelles ci giocheremo non solo l'euro ma anche il nostro futuro. Sentiamo Squinzi al microfono di Sebastiano Barisoni. Il 28 e il 29 noi ci giochiamo non solo l'euro ma ci giochiamo una grande parte del nostro futuro. Noi dobbiamo essere capaci di andare con determinazione nella direzione degli Stati Uniti d'Europa con un rinunciando progressivamente, magari con tempi tutti da stabilire, alle identità nazionali, ma comunque se non rimettiamo assieme i 5 punti chiari, Banca Centrale Europea con veri poteri di Banca Centrale, fisco, welfare, infrastrutture e energia, l'euro rimarrà una costruzione artificiale che non ha possibilità di durata nel medio-lungo termine. Ma lei come imprenditore, avendo produzioni in decine di paesi, teme moltissimo perché la Germania si è accorta che forse l'euro, se crolla, qualche danno lo fa anche a loro. Direi che più che temerlo sono terrorizzato da una caduta dell'euro perché questo vorrebbe dire riportare indietro di qualche decennio il livello di vita in Europa. I listini europei, dopo la debacle di lunedì, ieri hanno archiviato un'altra seduta debole. Madrid, la peggiore, meno 1,44%, ha chiuso positiva anche se levemente solo Francoforte, più 0,07%, stessa percentuale ma con il segno meno per Londra, Parigi ha perso lo 0,30%. Sui listini europei l'attenzione resta tutta per le decisioni che saranno prese al Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Nel frattempo gli operatori preferiscono mantenersi cauti ed eventualmente vendere. Milano, che alla vigilia aveva perso il 4%, ha registrato ancora una volta perdite più marcate del resto d'Europa, col FTSE MIB in calo dell'1,11% e il FTSE All Share in flessione dell'1,03%. Le vendite si sono concentrate sul settore bancario, col differenziale fra i titoli di Stato italiano e tedeschi tornato a salire attorno ai 470 punti base. Il titolo peggiore fra quelli principali è stato MPS, -5,3%, dopo che l'istituto ha ricevuto il via libera del governo a 3,9 miliardi di Tremonti Bond, i prestiti pensati dall'ex ministro dell'economia per le banche in difficoltà e che consentiranno alla banca senese di mettere in sicurezza la situazione patrimoniale come chiesto dall'autorità bancaria europea. Male anche il Seti Microelectronics, -5,2%, dopo che il concorrente tedesco Infineon ha dovuto ammettere che i ricavi scenderanno nella seconda parte dell'anno. Fra i pochi spunti positivi Telecom, +0,42%, in attesa di novità su T-Media, la controllata che possiede l'emittente televisiva La 7. Guido Maurino, da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Crescono intanto le tensioni tra Siria e Turchia, mentre la diplomazia non fa passi avanti. Ogni soldato siriano che si avvicinerà alla frontiera con la Turchia verrà trattato come una minaccia. Il premier di Ankara, Erdogan, manda i carri armati al confine e ribadisce che, dopo l'abbattimento del jet turco da parte della Siria, ogni altra violazione porterà a una ritorsione armata. L'abbattimento è stato considerato inaccettabile dalla Casa Bianca e anche dalla NATO, di cui la Turchia è membro, ma il Consiglio Atlantico non sembra considerare l'ipotesi di un intervento armato contro il regime di Assad, mentre l'ONU appare in stallo. La Russia continua a difendere la Siria, la missione degli osservatori sul suolo siriano resta sospesa per i troppi rischi e la conferenza voluta da Kofi Annan a Ginevra per il 30 giugno non è stata ancora confermata. Intanto in Siria si continua a morire. Almeno 6 persone sono state uccise vicino Damasco, negli scontri tra esercito e ribelli, mentre a Sarakib, nel nord del paese, i ribelli hanno abbattuto un elicottero dell'esercito e 3 carri armati. Francesco Riccardi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nella raccolta dell'IVA l'Italia in Europa fa meglio solo della Grecia, campione continentale al rovescio. E questo è uno dei dati inseriti nella comunicazione sulle misure concrete per rinforzare la lotta contro la frode e l'evasione fiscale, tanto nell'Unione Europea che nelle sue relazioni con i paradisi fiscali che la Commissione UE presenterà oggi a Bruxelles. Il documento, che contiene una serie di misure per rendere più efficace ed efficiente la raccolta fiscale, sarà sul tavolo del vertice europeo di domani e venerdì. Montenegro. Si tratta del terzo paese dei Balcani, dopo Slovenia e Croazia, ad intraprendere il percorso di integrazione europea. Soddisfazione da parte del commissario europeo all'allargamento, Stefan Füll, che esprime il suo apprezzamento su Twitter. La decisione del Consiglio d'Affari Generali della UE sarà ratificata al prossimo vertice europeo e l'apertura ufficiale dei negoziati è prevista per il 29 giugno prossimo. Il Montenegro ha conquistato lo status ufficiale di paese candidato all'adesione all'Unione Europea a dicembre del 2010 e il via libera ai negoziati ottenuto ieri arriva dopo l'ultima pagella positiva della Commissione europea, incaricata di monitorare i progressi di Podgorica nel suo percorso di avvicinamento all'Europa. I porti di Civitavecchia, Venezia, Napoli, Livorno e Savona sono tra i primi 10 nella classifica europea. L'Italia ha un ruolo di primo ordine nel settore croceristico. I dati sono emersi da alcuni studi dell'European Cruise Council. Nel 2011 un passeggero su 3 che ha viaggiato in crociera è partito dai porti italiani e nello stesso anno il nostro paese si è riconfermato principale destinazione croceristica d'Europa. L'European Cruise Council, l'associazione europea che raggruppa le maggiori compagnie croceristiche, ha reso noti a Bruxelles i dati relativi al 2011 ed è emerso in questo settore il ruolo di primo piano dell'Italia. Nella classifica dei porti più attivi, quello di Civitavecchia ha ottenuto il secondo posto dopo Barcellona per numero di imbarchi, sbarchi e transiti. Poi, a seguire tra gli italiani, Venezia, Savona e Genova. Quest'anno il settore croceristico in Europa ha toccato i 36,7 miliardi di euro e l'apporto italiano è stato di circa 4 miliardi e mezzo. È diminuito quasi del 2% rispetto all'anno precedente, ma ha comunque mantenuto il primato europeo. L'Italia è anche in cima alla classifica dei livelli occupazionali nel settore croceristico, ha più di 100.000 impiegati e un volume retributivo di più di 3 miliardi. Giorgia Minnuni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Grazie a Filippo Reggi in regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.